Se vi chiedessero di parlare di un pessimo esempio di ascolto e comunicazione, che cosa vi verrebbe in mente? A me forse verrebbe subito in mente un'assemblea di condominio. Avete presente quelle riunioni in cui tutti parlano e a un certo punto si parlano addosso l'uno all'altro e nessuno più ascolta nessuno? Ma a volte per avere scene di questo tipo basta anche una cena in pizzeria oppure un viaggio in macchina. Pare che Buddha una volta abbia detto: se la tua bocca è aperta, sicuramente non stai imparando nulla. Pensaci, è proprio così. Quando noi parliamo, non stiamo imparando nulla. Possiamo imparare qualcosa soltanto se ci mettiamo in ascolto. Oggi ti propongo quindi di provare questo atteggiamento e ti assicuro che rimarrai sorpreso se ci proverai. La prossima volta che ti trovi a parlare con qualcuno, sull'autobus, con il tuo migliore amico, perché no? Magari con un tuo parente o con il tuo partner. Prova ad assumere questo atteggiamento interiore e a chiederti: che cosa posso imparare oggi da questa persona? Sì, proprio da lui. Quando parliamo noi abbiamo il controllo della situazione, ma quando ci mettiamo in ascolto, dobbiamo lasciare all'altro il comando. E allora proviamo ad assumere questo nuovo atteggiamento. Lasciamoci portare in un territorio nuovo, inesplorato. Vediamo che cosa succede, vediamo che cosa l'altra persona ci può insegnare proprio in questo momento. Da una speaker TED una volta ho ascoltato questa analogia che mi è piaciuta moltissimo. Sentite, conversare con qualcuno è come leggere un libro. Puoi passare a qualsiasi pagina, puoi leggere ciò che vuoi e ogni persona è davvero un buon libro. Ognuno di noi ha una storia da raccontare e il nostro mondo è un'immensa biblioteca in cui ognuno di noi ha un bellissimo libro tutto da scoprire. Hai intenzione di leggerne soltanto i titoli o vorrai aprirlo e ascoltare una storia nuova? Pensiamo ai bambini, come sono sempre pronti a stupirsi quando gli raccontiamo una storia. Proviamo anche noi a metterci di fronte agli altri avendo questo atteggiamento pronto nell'ascoltare, nell'accogliere qualcosa di nuovo. Una giornalista, Celeste Headlee, in un altro TED Talk ha concluso così il suo intervento: tengo la bocca chiusa il più possibile e tengo la mente aperta e sono sempre pronta a stupirmi. Non vengo mai delusa. Provate a fare così anche voi. Uscite, parlate, ascoltate e soprattutto tenetevi pronte a stupirvi. Quali splendide cose oggi potrai apprendere se imparerai ad ascoltare in questo semplice modo. Chiunque può insegnarti qualcosa. Come? Non ti sei ancora iscritto al canale? E che cosa aspetti? Fallo subito. Clicca sul pulsante iscriviti e attiva anche la campanella delle notifiche, così non ti perderai nessuno dei nuovi video che verrà rilasciato ogni lunedì mattina alle 8 per iniziare bene ogni settimana. E se il video ti è piaciuto, non dimenticarti anche di lasciare un mi piace e un commento per dirmi che cosa ne pensi. Al prossimo video!